Blu Radio Sera. Sono le 21, passate da pochissimi secondi in questo giovedì 17 febbraio 2011. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante. Questa è la voce di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara, come di consueto il giovedì, faremo un live. Ciao Maurizio! Ma come si passa da Eddie Vedder, da Janis Joplin, alla forma cantautorale? Perché dobbiamo dirlo, gli ascoltatori non lo sanno, però adesso lo sveglierai. Certo. Tu parti musicalmente da quei miti. Sì, l'ascolto che facevo, diciamo, quando ero molto più giovane, molto più piccolina, inizia proprio da Eddie Vedder, da Janis Joplin, da comunque personaggi, cantautori e non, che hanno in comune una grande caratteristica, che è quello dell'essere appassionati, cioè della passione. A tutt'oggi, se ascolto Eddie Vedder, penso che c'è qualcosa nel suo modo di cantare, nel suo modo di scrivere, ma soprattutto nel suo modo di veicolare il suo messaggio, che mi, come dire, mi fa venire appunto la pelle d'oca, perché c'è quella magia che non tutti hanno. E questo ha a che fare col cantautorato in molti artisti, in altri probabilmente non succede, poi dipende anche dal livello di corrispondenza, diciamo, della nostra pelle. Però ecco, io l'ho visto anche, diciamo, qualche anno fa dal vivo, e di vedere mi ha emozionato. Quindi per Jam, Docet, per Jam di vedere, o da solo o con la band? Diciamo che lui è il focus, poi certo. La band, che secondo me fa il lavoro di una band, è quello di creare quell'atmosfera protetta che permette comunque al talento, al carisma che in questa si sviluppa, di dare il meglio di quello che può. Ok, decisamente così. Benissimo, quindi abbiamo fatto una presentazione. Frida si è presentata molto bene, si è presentata nell'ambito rock, e a me interessa molto l'ambito rock. Questa però stasera ti metti in ambito cantautorale, esatto. Tra virgolette, contrabbasso è uno strumento straordinario che dà un certo senso, e la chitarra acustica lo stesso. Vero Agostino? Si presenta in questa veste, in veste cantautorale. Sì, beh, io l'ho anche conosciuta in questa veste, tra l'altro. Una sera, tornando a casa, lei mi ha colpito veramente per la sua voce, la sua canzone e la sua musica. Il testo è bellissimo, poi la sentirete anche quella canzone che ha fatto quella sera, quella notte. E quindi io veramente ho fortemente voluto lei qui, proprio per queste caratteristiche che secondo me è giusto mettere in risalto, mettere in mostra. Siamo in tempo di Sanremo, dove si ascolta musica, tra virgolette, mi fermo lì, non voglio commentare. Ascoltare una canzone d'autore, come la chiamo io, come quella che fa Frida, è veramente tutta un'altra cosa. Mi correggi? Grazie. No, devo dire, mi sento anche... Parla un pochino più vicino al microfono. Mi sento anche giovane, tra virgolette, se penso al mio percorso artistico. Infatti, ricollegandomi anche al discorso del rock, ho suonato tanto in quella che possiamo chiamare gavetta, ho suonato tanto rock e mi sono portata dietro cosa del rock? Beh, forse la disperata voglia di buttare fuori quelle emozioni e quei messaggi comunque che ci nascono e ci crescono dentro, ma sono anche, come dire, indotti dalla nostra epoca e dal vivere nella nostra epoca. Infatti, Dispiegando non è altro che appunto una canzone sul come ci si sente a vivere oggi. Certo. È un tempo molto complesso, lo spirito del nostro tempo è molto contraddittorio, ed essere, tra virgolette, passatemi il termine, sani, non è facile. Quindi ognuno poi ha le proprie strategie, e questa è anche una cosa importante, questa è la mia strategia per essere, non dico sana, ma avere un equilibrio dinamico, diciamo così. E le male lingue e i cinnamono chi erano? Sono dei progetti musicali, appunto, più rivolti alla reinterpretazione di brani comunque non originali, esatto. Ho capito. Ecco la gavetta attraverso la quale si imparano le cose che si devono imparare dagli artisti che già hanno espresso i loro messaggi. E infatti arrivo adesso alla dimensione acustica, perché evidentemente sono in un periodo in cui ho bisogno un po' di un ritrovarsi più intimo, perché ho delle cose da dire che magari sono forse, dato che tutti urlano in questo secolo, magari dicendo le cose un po' più con leggerezza, nel senso appunto con meno volume, tra virgolette, forse si arriva meglio. Certo. Io forse la voglio ascoltare subito. hai voglia di farci qualcosina subito da tanto per farci capire, conoscere, ci vogliamo conoscere, questa è la parola che credo sia giusta, perché lei è veramente una grandissima artista. Io veramente di cuore vi auguro un buon ascolto di questo programma, perché veramente lei è bravissima. Allora, ascoltiamo Frida Neri, cosa ci fai ascoltare? Di Spiegando il Mondo. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Come deve essere crescere in un mondo che non sa partorire la vita dalle vigore ed invece la incatena a quotidiane comodità per addormentare l'anima come fuochi coperti da una cenere che cancella ogni volontà nell'apatia. Come deve essere scegliere fra mille possibilità, pagare incomode rate un futuro migliore per uscire dalla noia. Mi ritrovo ad ammettere di sentirmi un'estranea nella casa dei miei simili, dove ha senso solo ciò che hai, mentre sento che viviamo dentro una vertigine fino al limite, ma io sono qua, sono consapevole, io sono qua, ho tempo e voglia da vendere e porto con me desideri ancora da vivere, io sento che c'è di più. Come deve essere vivere senza una direzione nitida, attraversare il dolore riuscivo a sentire, riparando da ogni lacrima senza anestesia, quasi affogare nell'intensità, oh, vicino al limite, ma io sono qua, sono consapevole, io sono qua. Ho tempo e voglia da vendere e porto con me desideri ancora da vivere, io sento che c'è e porto con me le piccole cose che mi ricordano lo spazio e la luce per coltivare ciò che sono, con la testa da cura per questo nostro esserci adesso qui. Che dolcezza, che languidità. Ecco, vedi Maurizio, io l'ho conosciuta con questa canzone. Un grande pezzo, un pezzo che ricorda certe cose, posso dire, non so se sei d'accordo Frida, certe cose folk secondo me. Assolutamente. Parte sì. Da quella, la radice è quella, anche folk inglese probabilmente, io amo particolarmente il folk inglese e probabilmente c'è un DNA, un collegamento. Poi il contrabbasso e la chitarra acustica danno un certo senso, una certa ispirazione, e l'acusticità non è semplice, è più difficile che l'elettricità, secondo me. Sì. Quindi fare una versione acustica è molto più complesso e difficile. I Malini dicono, quando suoni in acustico suoni veramente, cioè non ci sono delle protezioni, mentre in elettrico qualche volta le protezioni ci sono. Beh, c'è un muro del suono che appunto ti proietta, sono tutte altre atmosfere, ma infatti prima parlavamo dei miei progetti, no? Il sì. Sinamomo, per esempio. Poi ne ho altri da leggere, quello che ho visto nella tua biografia, il progetto. Beh, insomma, io appunto accanto all'anima elettrica ho sviluppato nel tempo quest'anima acustica e mi rendo conto che ha delle atmosfere, delle suggestioni che vale la pena andarle proprio a sperimentare, anche a ricercare, perché in Italia comunque parliamo di mainstream, ecco, sì. Siamo un po' legati a un modello, un canone quasi classico, diciamo, di musica leggera, e invece nell'underground c'è tantissimo, e tantissimo c'è anche di acustico. Adesso io in macchina, venendo su anche con i ragazzi, non è italiana, però stavo ascoltando un disco molto bello, secondo me, una cantautrice americana, Anais Mitchell, sì. E ha fatto questo disco che a mio avviso è bellissimo, perché poi unisce anche il racconto mitologico alla musica, alla infatti musica. È una piccola opera folk, esattamente. Io mi scuso per la voce, ma fino a stamattina ero nel letto con la febbre, quindi... Infatti ti dobbiamo anche ringraziare. Però insomma, ecco, ascoltando questo disco mi sono resa conto che c'è tanto da dire, e probabilmente quello che io ho da dire si muove in quella direzione. Però non è detto che non hai transitato a Sanremo, tu hai transitato in Sanremo Rock, sì. Nel 2008 mi pare. Sì, in duo appunto. In duo. E ero lì con sempre canzoni originali, e pur essendo l'unico duo praticamente in gara, siamo arrivati appunto quarti. Sì, è stata un'ottima posizione. Sì, quindi sì. Bene o male saremo docce, visto che è contemporanea. Aleggia. Sì. Quando fai musica, cosa ti ispiri? Cos'è che ti fa fare quel pezzo, quel determinato pezzo? Succede una sorta di alchimia, una sorta di magia. Cioè, io premetto che per me fare musica, io non l'ho deciso. Cioè, non è che io ho deciso un giorno di mettermi a fare musica. È qualcosa che c'è sempre stato, che più andavo avanti con gli anni, più mi chiedeva attenzione. E infatti poi in un periodo come il post-laurea, poi io sono laureata in filosofia, quindi non è che ci siano tutte queste porte aperte. E, insomma, nel mio post-laurea un po' critico, come se la musica avesse fatto capolino e mi avesse detto cocca, o adesso o mai più, insomma, guardami, sentimi, buttami fuori. E quindi da lì ho cominciato a, quasi senza accorgermene, ho sempre scritto, ma a scrivere con più piglio, con più attenzione, con più arte. E, però il motore primo è sempre, posso chiamarla l'urgenza espressiva, cioè il fatto che è una cosa che ti viene da dentro, cioè devi canalizzare delle energie. Sicuramente all'origine non sono poi così positive, si sa che è un mito quello che, no, si scrive quando si sta male. Quindi io, stando spesso male, tra virgolette, scrivo spesso. No, scherzo, però come dire, è un vecchio escamotage che l'uomo si è dato dalla notte dei tempi, quello di buttare appunto magari rabbia, dolore in note, e guarda caso però ne viene fuori bellezza, ed è questo, io credo, una delle vie di salvezza, tra virgolette, dell'essere umano, e ne sono rimaste ben poche, devo dire. Certo. Allora, prima di andare avanti, scusa se ti interrompo, volevo precisare una cosa. Ci sono stati dei problemi all'inizio, perché c'è stato chi ci ha scritto che non si sentiva, e adesso è stato tutto sistemato, mi hanno confermato che si sente benissimo. Questa è quindi Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita. In questo momento stiamo cercando di scoprire e di capire chi è Frida Neri, che è venuta a trovarci in questa serata piovosa qui a Padova. Pensate, ha fatto quasi 300 km per venire qui, pur avendo la febbre. Ieri infatti mi ha fatto mettere un po' in allarme mattina, e poi se ne ritorna in quel di Fano di nuovo. Quindi è veramente un plauso grandissimo a te, Frida, e ai tuoi compagni di viaggio, Massimiliano e Andrea, che ti hanno accompagnato qui. Quindi di nuovo grazie a voi tutti di essere venuti questa sera a Blu Radio Veneto. Allora, Maurizio. L'uso del contrabbasso, della chitarra acustica, com'è nata l'idea, Frida, di questo trio? Bello, interessante, una versione acustica, penso che hai fatto adesso, era molto bello, ripeto, con la tendenza folk, io amo molto il folk, forse mi sbilancio un poco, però penso che sia bello sbilanciarsi in questo senso, a mio parere. Bene, la chitarra mi ha, anche questo, istintivamente, richiamato a sonorità avvolgenti, tonde e anche basse, perché comunque avendo fatto diverse sperimentazioni, sentivo che mancava quel sottofondo e comunque quel cuore pulsante che sono poi le note basse. E quindi ho pensato al contrabbasso, perché mi affascina già come presenza scenica. Cioè, dicevo a Massimiliano prima, mi sembra come se fosse una persona, cioè ha questo corpo comunque così, che prende così tanto spazio che non puoi non guardarlo. Con le webcam si vede, lo stanno inquadrando il contrabbasso. E soprattutto il contrabbasso con l'archetto è stata una scoperta per me, perché ha portato ai miei brani, questo grazie anche alla sensibilità di Massimiliano, delle sfumature molto... come dire, complesse, nel senso a volte molto dolci, a volte sembrano mimare una nenia, a volte invece aprono delle tensioni, quindi come dire, come aprire diversi spettri che prima non c'erano, e anche il mio cantare diventa un'altra cosa con tutto questo sotto. E poi Andrea chiude il cerchio. Esatto, poi Andrea, per esempio, la sua chitarra, almeno a mio avviso, ha un tocco molto sofisticato e molto elegante, ma anche a volte molto dolce. Mi piacciono moltissimo le frasi che riesce a trovare in alcuni punti della canzone, perché ci tengo a dirlo, appunto, siamo un trio dove ognuno apporta del suo, naturalmente intorno all'idea di canzone, che le canzoni sono come le parole, non siamo noi a crearle, siamo noi che le captiamo dallo spazio e le rimettiamo in giro, insomma. Certo, chiarissimo, l'idea del trio è nata così, sì, praticamente. Sì. Adesso ti vogliamo sentire ancora cantare, vero? Certo. Cosa ci fai? Siamo qui per questo. Cosa ci fai di bello adesso? Allora, vi faccio Alle soglie dell'aurora, che è un pezzo molto onirico, molto esistenziale, ecco. L'immagine può essere di me davanti appunto all'aurora, che mi faccio domande, le tipiche dei filosofi. La mia voce peggiora sempre di più, speriamo che... Tieni, non ti preoccupare, sei sempre tu. Blu Radio Veneto. Danzano pensieri uniti in un vortice, raccontandoti storie vecchie e nuove, e mi parlano di ciò che provo, credo, sono, sorridono, celando ciò che non voglio vedere ancora, coi miei pensieri alle soglie dell'aurora, ed è come se non ci fosse il limite in ogni singolo istante, dentro ogni minuto, in ogni pezzo mancante, in tutto quello che ho vissuto. Si perdono i profumi e i colori, ritornano svelando ciò che io voglio vedere ancora, coi miei pensieri alle soglie dell'aurora, ed è come se non ci fosse in ogni singolo istante. te in tutto quello che ho, in ogni singolo istante. Oh, oh, oh, oh, yeah. Ah, ah. Bellissima, bellissima e ancora bellissima. Frida, io devo leggere un messaggio che è arrivato poc'anzi, che ti riguarda, e dice, cioè riguarda noi diciamo in generale, dice vi ascolto, è fantastico come la vostra radio riesca a regalare arte nella sua forma più alta. Davvero molto brava Frida, voce calda e sinuosa. Un abbraccio a tutti voi. Grazie, wow, Silvia. Che bello. E poi ti voglio rubare 2 secondi. E prima che continuiamo a parlare di questa serata, volevo salutare un mio carissimo amico. Posso farlo? Mi permetti? Ciao Luigi! Ciao Agostino! Mitico! Ciao Frida! Ciao Luis! È bellissimo ascoltarvi alla radio. Sono felice di salutarti, anche perché... No, devo dire una cosa, io sono molto emozionato, lì ero meno emozionato, si è molto più emozionato al telefono, devo dire. No, comunque spero che tu stia bene, perché l'ultima mail mi ha detto che avevi un po' di febbre, adesso come va? Beh, praticamente facciamo finta di non averla, la ignoriamo. Però è incredibile come riesci a cantare benissimo nonostante... Sei in convalescenza. Ok, ci credo. Infatti preferisco cantare che non parlare, perché senti che... No, va benissimo. È bellissimo ascoltarvi in radio, veramente bellissimo, perché mi ricordo di quando pochi giorni fa sono stato io là. Sì. E quindi mi immagino la scena. Io adesso non mi sto guardando via streaming video, ma soltanto streaming audio, quindi... Non riesco a capire come state messi lì. Beh, però un ascolto più retro, dai, ci piace uguale. È bellissimo. Diciamo che, diciamo che Frida è seduta al posto di Andrea. Ah, ecco. ho capito. All'incirca. Abbiamo l'amico contrabbasso che ha bisogno di un giusto spazio. No, perché quando è venuto Luigi lì al posto tuo, Frida c'era il suo accompagnatore, chitarrista, sì. Ce l'hai visto poi. Sì. Allora, Luigi. Sono contento che veramente di ascoltarvi, e naturalmente non vedo l'ora di rivedere Frida a Novellara. Infatti ci stiamo già preparando. Già che ci siete, parlatene di questo evento, giusto? Niente, Luigi, ci vediamo il 19 alle 3, ok? Iniziamo. Tu vieni sul giorno. No, prima. Io arriverò il 19, però il sabato, no? Sì. Però penso che arriverò più tardi. Sì, perché alle 3 starò ancora a Falconara. Ok, vabbè, ci vediamo in tarda serata. Ci vediamo in serata, sì. Ma diciamo, diciamolo che cos'è questo evento, Beh, il Nomadi Incontro, spiegarlo. Sì, è un evento molto importante, l'incontro che si tiene tutti gli anni a Novellara in memoria di Augusto D'Aolio, e questo fa molto lustro ai Nomadi, viene aperto anche a tutti quegli artisti giovani che appunto attraverso concorsi collegati al nome di Augusto, al nome e quindi ai Nomadi, arrivano su quel palco prima dei Nomadi stessi. Quindi ci sarò io, ci sarà Luigi. Sei pronto, Luigi? Ci saranno anche altri, da quello che ho capito, però io non li conosco. Saranno 3-4 altri giovani emergenti. Sì. Beh, sarà bellissimo, perché ci sarà tantissima gente. Sì. E siete stati invitati perché avete fatto il primo e il secondo posto. Esatto, siamo la vetta. Devo dire che Luigi meritava di vincere. No, no. Che stai dicendo? Io no, sono... guarda, sono molto... Cioè, apprezzo molto. Beh, bene. Vedremo. E sei emozionante in tutto, sia come artista che come persona, è profondissima, io sono un tuo fan, cioè assolutamente, fan incredibile, non vedo l'ora di rivederti. Bene, sto arrossendo intanto. Ma sì, ma intanto ti vedono, sai, ti stanno vedendo. Luigi, noi ti ringraziamo ancora di essere venuto la settimana scorsa. mi sono trovato talmente bene che... Io ho trovato un sacco di messaggi veramente belli nei tuoi confronti di quello che hai regalato quella serata, e noi veramente ti abbiamo preso in simpatia, ovviamente, insomma. Hai lasciato un po' di tristezza, nel senso che sei andato via, che magari potevamo fare ancora altre ore. Ricordi che il tempo è volato, ma certo, anche stasera volerà, perché ascoltare Frida, insomma, sia parlare che cantare è emozionantissimo. È una brava... Quindi adesso vi ascolto, continuare ad ascoltarvi. Certo. Bene, vi abbraccio. Bene, saluto Luigi. Anche ciao, Maurizio. Luigi. Grazie Luigi, sono qua, ci sono sempre però, ti sento ben volenti. Ti abbraccio. Grazie. Va bene, allora vi saluto caramente. Speriamo di rivederci presto. Quando vuoi, le porte sono aperte. Con Frida ci rivedremo presto. Sì, prestissimo. Venite su in due a fare un concerto da queste parti, no? Perché no? Non sarebbe male. Luigi, organizza, dai. Speriamo, dai. Non posso fare. Ciao. In futuro lo faremo. Ah, certo. Grazie della disponibilità. Ciao, grazie. Ciao. Allora, era un caro amico Frida, non solo tuo, sì, anche nostro. Luigi Mariano è un personaggio veramente splendido, ho avuto un mondo di piacere conoscerlo, poi mi ha parlato tra l'altro anche molto bene di te, anche di Raffaella e di... Anna Chiara. Ok, ritornando al pezzo che Frida ha eseguito assieme a Massimiliano Tonelli a contrabbasso e Andrea Liberti alla chitarra acustica, è un pezzo più veloce questo qua, più ritmato, leggermente pop nel senso positivo del termine, mentre l'altro era più dedicato al folk, più intimista. Questo è un po', anche se il testo poi non è assolutamente che non sia meno intimista questo qua, però era più vivace, più energico. Prendi la chitarra, un po' di grinta sulla chitarra, come le cantautrici americane che tu citavi, che sono abbastanza grintose quando imbracciano la chitarra nel senso positivo del termine. Questo era un pezzo più mosso. Ma è giusto che sia così, sì. Ci vuole le movenze diverse, quelle meno delicate, più delicate. Ma una cantautrice deve essere così, secondo me. Molto complessa, certo, esattamente. Molto multisfaccettata. Certo. Esattamente, molto sfaccettata. Ma adesso sentirai con il prossimo pezzo. Ecco, perfetto, noi siamo sempre qua a disposizione tua per sentire le tue variabili musicali. Ok. Cosa ci fai ascoltare? Allora, questo brano si intitola Al matrimonio. Ed è, come dico sempre, perché ormai è nata una sorta di simpatica gag attorno a questo brano, è un brano su una maniera alternativa di vivere i matrimoni altrui, cui solitamente, o anche no, ma ci può capitare di annoiarci. Ecco. Blu Radio Sera. Sulle sue labbra l'espressione di sorpresa. Niente salmi, niente scuse, solite paure di chi le sta intorno, signore. Il momento è quello giusto per dare inizio al nostro gioco e lasciarsi andare. Okay. fioche nella stanza, ma riesco a percepirne l'estensione. Diversi gli angoli in cui nascondersi e lasciare spazio alla passione che si fa intensa. Vorrei sfogliare le sue vesti e leccarne via il timore. E lei cosa vorrebbe farne di me, lascio che sia carne. Lascio che sia carne e impeto, mentre annego un fuoco umido. Lascio che sia l'istante a dirlo. Lascio che sia carne e impeto, mentre annego un fuoco. Lascio che sia l'istante a dircelo, a dirci di più. I complimenti te li fa anche un cantante, Frida, che verrà martedì prossimo qui a Blu Radio Veneto, cioè Andrea Papetti, e ti saluta caramente e dice complimenti a... Grazie Andrea. Martedì prossimo ci sarà lui qui alle 21 con Flavio Bilato e con il mio... Ci sono sempre io. Io sono ospite. Però, Le costanti Flavio... servono. Gli ospiti servono sempre. Una mano al conduttore come in questo caso. Altro cantante che ti saluta si chiama Nicola Pavan. È venuto anche lui tempo fa qui. È un cantante di Padova lui. E dice bella voce, brava, vi ascolto dalla radio del telefono tramite computer. E non può andare. Ecco. Grazie. Poi ne approfitto per salutare un'altra cantante, questa è una voce splendida nell'ambito del jazz italiano, si chiama Eva Simontacchi, è stata qui mesi fa, ha regalato una serata splendida e anche lei ti sta ascoltando e ti fa i suoi complimenti. Grazie. Benissimo, salutiamo anche e ringraziamo il nostro direttore artistico che verrà fra poco, Alberto Prisco, e la Chiara che sta curando le webcam adesso. Le webcam, sì. E dopo farà le foto. E poi farà le foto. Insomma. Parliamo un momento di questo pezzo. Posso fare, cioè io l'ho sentito così. Sì, vai. Un inizio in cui si odora, se mi è costituito l'espressione, il tuo blues. All'inizio è quello, c'è un po' di blues. Poi, grazie al contrabbasso e alla chitarra di Andrea, di Massimiliano, il contrabbasso, si è sviluppato, si è allargato, ma lo carichi, lo prendi come un iniziale blues, poi lo sviluppi in modo diverso. Però c'è il blues assolutamente nell'inizio di questo pezzo. Assolutamente. Io l'ho sentito così. Eh sì, c'è. Perfetto, siamo d'accordo. C'è. La tua radice, sì, tuo avvicinarti a Janis Joplin, tuo avvicinarsi a quei mostri sacri musicalmente parlando, vuol dire, e fare suonare tante volte, esatto, in tanti locali con il gruppo, è importante, hai fatto le basi fondamentali del tuo sviluppo cantautorale. Anche perché il blues è più... prima di tutto una forma mentis. Esatto, una forma mentis. Il blues, sì, è padre e madre, possiamo dire così, di tante cose. Sì. Non so se i nostri tuoi colleghi sono d'accordo. Sentiamoli. Sentiamo, Andrea, avvicinati un momento al microfono. Si sposta, è una cosa molto complicata. Sì, molto complicata. Alzalo pure. Alzalo. Poi parla anche Massimiliano. Certo, ovviamente da chitarrista non posso essere che d'accordo con questa tua affermazione che il blues è... ovviamente sta alle basi, alle radici di tutto. Sì, si sviluppa, cioè dal blues partono tante cose. Moltissime, che, sì. Moltissime cose. Massimiliano, cosa ne pensi? Il blues col contrabbasso. Allora, per me è ancora più difficile abbassarmi. Ecco, contrabbasso, certo. Non posso che sottoscrivere il blues, è importante. è fondamentale. Ti sento pochissimo. Immagino, ma se guardassero le webcam, fai labiale. Un uomo e distrutto. Sono un po' obbligato. È un po' legato a parte. Sì. Benissimo. E una cosa volevo chiederti, Frida. Alla realizzazione di quell'album che stai realizzando c'è un certo personaggio, un certo signore, un tuo amico, si chiama Fabio Generali. Sì. Chi è Fabio Generali? Adesso questi due, tu e lei, tu e li abbiamo, cioè, ne abbiamo parlato, ma Fabio Generali chi è? Allora, Fabio è un ragazzo che appunto sta studiando in conservatorio e cui ho chiesto un favore. Gli ho detto, Fabio, io nella testa ce l'ho quello che voglio nel mio album, le influenze, le atmosfere. Alcuni strumenti, però ho bisogno di una persona che aiuti, come dire, mi aiuti in questo parto, perché è un parto questo album, e come dire, come lo sono loro dal punto di vista live, ma non solo, anche Fabio rappresenta, diciamo, una parte di questa equipe, di questo team, perché, ecco, io musicalmente a livello tecnico comunque ho le mie lacune, lo dico, non ho problemi, e vorrei che queste lacune fossero riempite da chi mi sta intorno, da cui ho tantissimo da imparare, e quindi queste figure mi stimolano quotidianamente e tengono accesa la fame appunto di evolversi. E quindi Fabio ha questo ruolo, infatti adesso stiamo in questa sorta di fucina, stiamo entrando praticamente noi tre più lui. Quindi l'album non è solo di Frida, è di Andrea, è di Massimiliano, certamente. Certamente, è di Fabio, sì, eccetera. Sì, certo. Ok. L'ascoltiamo ancora. Ce la fai sicuramente. Allora, la prossima è una ballata. Una balla, bellissima. Sì. Sentiamo poi cosa mi dirà. Sentiamo. Blu Radio Veneto. Del vento e c'è terra, c'è mare da incidere ancora con i miei passi lenti alla sera, c'è colore, lontananza, trattengo il respiro per un attimo solo, metto fuoco nel mio obiettivo, le case, la gente, sconfinate, distese, dove gli altri non vedono niente, io vedo ombre, trovo luce, colgo il sale, sconosciute mi hanno detto di cose segrete della vita e dell'amore, della fame, del giorno in cui si muore. Yeah. Questa si chiamava, Frida? Siberiana. Siberiana, bellissima. Ho tre idee per questo pezzo. Te dico. Dunque, una cosa molto bella, gli ascoltatori hanno sentito e hanno, forse avranno visto il duetto continuo fra Andrea e Massimiliano, questa rincorsa continua fra i due strumenti, molto interessante. Io ho avuto questa idea, Frida, quando ho sentito questo pezzo. Tanto una ballad arrabbiata, nel senso presa dal punto di vista vocale, l'hai aggredita nel senso positivo. Un po' alla murder ballad di Nick Cave, sai, ballate oscure Nick Cave. Non parla di questa dimensione, però quell'andazzo là nel senso positivo, le murder oscure, le ballate oscure di Nick Cave. Io l'ho sentita così. Io andrò a casa e avrò bisogno di una seduta dallo psicologo dopo questa serata. Quel momento là di particolare Nick Cave, quando aveva fatto quel disco meraviglioso con PJ Harvey, c'era anche PJ Harvey, quindi insomma... Tutti e due appassionati. Appassionati. Sì. Quindi io, questo è un pezzo molto bello, è molto difficile secondo me da fare, molto complesso, anche acusticamente parlando. Ripeto, questa rincorsa continua fra i due strumenti non è semplice, ma è abbastanza difficile. Voi ragazzi cosa dite? Cosa dite? Nel rincorrervi. Ma che ci divertiamo. Vi divertite. Giocare da chiapparello. Io l'ho trovata molto bella, molto significativa, molto sostenuta. Dimmi. Infatti la cosa bella dal mio punto di vista nel vedere loro lavorare insieme è proprio questo crearsi comunque di una relazione. Questa risposta continua, si risponde in continuazione. E anche quello che hanno trovato per questo pezzo è nato appunto in un dialogo, prima ancora concettuale e poi musicale. Benissimo, è stato molto... Vederli molto... che si divertono, io sono contenta. Dobbiamo sottolineare una cosa, io Agostino lo sappiamo, però... Molti pezzi che adesso sentiamo sono per noi assolutamente live, cioè assolutamente sconosciuti. Noi abbiamo sentito prima assolutamente nulla. Sì, quindi sì, è tutta una cosa eseguita a te dal vivo in questo momento, quindi è una cosa ancora decisamente importante. Ti svelo un segreto, Maurizio. No? Io gli ho chiesto a Frida ancora qualche giorno fa, mandami su qualcosa di tuo, nel senso di biografia, di cose. Perché sai, c'ho pochissimo di te, non so nessuno... Non importa, mi scoprirai in trasmissione. Ha fatto una cosa giusta, è così che si deve fare, secondo me. Ma infatti mi ha fatto piacere anche queste due parole. C'è una canzone che ti piace particolarmente? Io so che tu fai parte anche di un gruppo che fa un tributo a Ivan Graziani. Sì. C'è una canzone, figurati, nessun problema. C'è una canzone di Ivan Graziani in modo particolare che ti piace? A me... manda in trance cantare Lugano addio. Wow, è la prima. È la primissima. A me Ivan piace molto e mi ha insegnato molte cose. Nell'ascoltarlo ho imparato molto, perché ha questo modo di scrivere tutto personale che probabilmente se un'altra persona avesse scritto le stesse cose e cantato le stesse cose non sarebbe stato lo stesso, perché ha un suo piglio personale. Poi ha quella vocina che mi sono sempre detta sembra quasi soul in alcuni punti, è straordinario, e in alcuni punti con la chitarra sembra di ascoltare Jimi Hendrix, insomma è tante persone, e a me le persone complesse, numerose piacciono. Già, beh, immagino. Sì. Beh, lui è stato un grande comunque, Ivan Graziani. Sì. Ma voi suonate spessissimo queste canzoni sue, o... cioè voglio dire, andate spesso in giro, voglio dire? Beh, sì. Poi insieme a lui ci sono, diciamo, altri brani, però Ivan Graziani è il nostro nocciolo duro, ecco. Sì, assolutamente. E con i Nomadi invece cosa mi racconti? Beh, i Nomadi sono stati uno dei gruppi che ho ascoltato quando ero molto piccola e abitavo nelle alte verdi montagne del Molise, e come ho detto anche in altre occasioni, ho questa immagine eterea del cielo, perché io vivevo a 1200 metri, insomma, alta montagna, quindi montagna. Il cielo è bello terzo lì, e questa atmosfera, ecco, la canzone in cui sono affezionata Tutto a posto, cioè proprio mi mandava veramente in trance, devo dire, e di Daolio, di Nomadi, apprezzo accanto all'impegno, accanto alla serrata comunque critica, anche se a volte divertita, no? Però apprezzo proprio, ecco, queste piccole perle di anelito all'infinito. E quindi è qualcosa di particolare. Sì. E poi sabato vedrai Carletti. Che è l'unico rimasto originale della band, purtroppo. Gli altri... Ma oggi pensavo all'energia e al piacere e alla felicità, ecco, di vivere una vita suonando, potendo suonare su palchi... degni di questo nome, certo. In cui verso i quali la gente viene con l'orecchio teso ad ascoltare, e anche in macchina con loro, prima diciamo non è facile trovare posti del genere. E quindi immagino, cioè, appunto, questo Carletti, cioè, che vita vuoi di più? 200 concerti avranno fatto l'anno scorso, cioè, cavolo, bellissimo. Vedi, da Dio è morto all'ultimo pezzo, non è cambiato, è cambiato, sì, sono cambiate le età, sono cambiate le età, però il filo conduttore che legua Dio è morto agli ultimi pezzi di Nomadi non è cambiato, la voglia di suonare, è sempre rimasta. Certo. E quelli... Augusto D'Aolio, cioè appunto, come i carismi dentro un gruppo, è un altro tipo è il gruppo di ma è anche a sé. Certo, certo. Però non bisogna fermarsi, insomma, se si vuole continuare. Poi lo ripeto, la musica è una coazione, diciamo è un qualcosa che ti spinge a farlo, non è una passione che possiede. No? Una domanda velocissima e poi lascio la parola a Agostino. Il pezzo che ami di più dei Nomadi in assoluto qual è? È quello. È quello, tutto a posto. Le mie gambe oramai. Perfetto. Canta ancora un pochino, dai. Sono stanche, vorrei dare un po' di sonno agli occhi miei. Scende l'oscurità, c'è una strada più in là. Il mio viaggio adesso finirà. Sono arrivato. E qui l'apertura. E via. Hai delle somiglianze, se non ti offendi ovviamente, a Carmen Consoli. Sì, me lo dicono tutti. Anche la Chiara mi ha detto, sembra Carmen Consoli, ma è Carmen Consoli qui in studio? No, sì. Avete più o meno la stessa voce. Ne parlavo tempo addietro con un grandissimo cantautore marchigiano, Andrea Marzi, e lui mi diceva proprio questa cosa, assomiglia a Carmen Consoli, ma come fare per slacciarti? Perché in Italia, cioè io paradossalmente Carmen Consoli non l'ascolto moltissimo, devo dire la verità, e quindi appunto in Italia essere affiliata, diciamo, a una figura principale non paga, ma non paga da nessuna parte. E quindi lui mi diceva, forse è una questione di missione, una questione, io la vedo così, veniamo questo noi molto... diciamo accennato, veniamo da un background comune, cioè Carmen Consoli, guarda caso, se non erro, suonava appunto in un duo prima di diventare famosa, comunque ha delle radici blues, certo, rock, cavolate, quindi probabilmente il timbro della voce insieme alla modulazione da questo... E lei suonava nelle piazze come te, chiaramente, davanti alle sagrate delle chiese. Esatto, come... ma è quello che ti quello, forma. Quello bello, era una basker come te, anche te suonavi nelle strade, chiaramente. Senso positivo, del termine, sono andato dappertutto. Sì. Ma io ho imparato a cantare direttamente dal palco, fondamentalmente. Ed è solo da un anno e mezzo che studio. E quindi... studi con una maestra cantante d'opera, Letizia Asciuto? Letizia Asciuto, sì. E mi sono informato, vedi? Visto. Siamo informati di tutto. Facendo un buon lavoro. Poi c'è l'inverno, c'è che parlo troppo, dovrei parlare meno. No, assolutamente. Però sì, è un altro... Ecco, per esempio il canto... lirico è un viaggio enorme, mi sembra veramente di entrare in un mondo, già per me il canto è una forma di meditazione, ma lì è proprio un miracolo, è una cosa fantastica. Fantastica. Sono le 21:54 minuti, quasi 55, state sempre ascoltando Blu Radio Veneto, la vostra emittente in questo momento preferita, dicevo, come dico sempre, la voce che sentite è quella di Agostino Spolore, che assieme a Maurizio Calzavara stiamo cercando di capire chi è Frida Neri, è un personaggio che già voi avete scoperto perché canta in una maniera splendida, quindi non sta a me tanto dire poi più di tanto, ma lei è veramente qualcosa di eccezionale. Allora, ancora qualcosa live? Perché no? Cadono giù coprire ricordi miei. E perché salvo l'onore per quanto ce n'è. Forza ho bisogno di fingere che tutto sia già a posto, semplicemente come se bravissima, bravissima, brava, bravissima. Molto difficile questo, secondo me. Bravissima. Anche questo è un pezzo non semplice. No. Certe armonie un po' complicate. Sì. Era un pezzo pop, sì, ma un pop non totalmente così all'acqua di rose. Era un po' complicato. Anche la stessa tonalità del contrabbasso dava una certa ricercata. E tu cercavi giustamente di avvicinarti a questo suono del contrabbasso. Non è mica facile. No. Blu Radio Veneto con Agostino Spolaore e con Maurizio Calzavara alle 22 di questo giovedì 17 febbraio 2011. Questa è Blu Radio Sena fino alle 22.30. Dopodiché ci sarà Alberto Prisco, ovviamente con la sua classifica di musica rock, con il suo programma di musica rock. Lui presenterà tutte le novità. E poi, tra l'altro, è stato assente anche per 2 settimane per motivi che sappiamo di salute. Poi c'è stato lo spostamento, insomma, un po' di confusione è successo. E comunque ci sarà questa sera alle 22.30 con la sua trasmissione. C'è Agostino Spolore e Maurizio, dicevo, per capire, e noi vogliamo sempre capire chi è Frida Neri. Frida Neri, tra l'altro, è vincitrice del concorso, l'abbiamo detto un sacco di volte, che aprirà. Sì. Ma com'è stata? Com'è nata? Io sono curioso di sapere com'è nata la richiesta di andare, la partecipazione di andare a questo concorso organizzato, insomma, dai Nomadi. Ma il concorso che ho organizzato da un ottimo giornalista, Antonio Ranalli, molto amante dei Nomadi e grandissimo appassionato della musica, che spende tantissime energie per portarla avanti, per dare un po' di spazio appunto alle giovani promesse, diciamo così, del cantautorato. E io mi muovo e cerco questi spazi, quindi cerco insomma, mi rivolgo al pubettino sotto casa piuttosto che al locale che appunto fa e ospita veri cantautori, nel senso che ospita musica originale, che è sempre più difficile trovarne, e in più appunto i concorsi, la strada dei festival è una di quelle che si percorre per cercare appunto di arrivare a contatti. Ma ecco, io non è che cerco la fama, cerco veramente, lo dico in maniera molto sincera, cerco semplicemente, tra virgolette, delle situazioni, dei contesti, dei luoghi materiali non in cui poter suonare, cioè, ecco, beh, basta. Certo. Quello è importante. Ma tu suoni soprattutto vicino nei dintorni di Fano? O... Beh sì, poi mi divido anche tra le Marche e il Molise, perché appunto ho ancora forti radici nella mia terra, perché ci ho abitato fino a 18 anni, ecco. Quindi appunto sempre diverse anime, sempre diversi contesti. Adesso spero di sbarcare nella capitale, perché penso che suonare a Roma sia una delle esperienze per un cantautore obbligate. Sei già sbarcata a Roma comunque. Cioè, ho iniziato dalla Rai, va benissimo, ok. E scrivere e cantare dei pezzi per una colonna sonora del maestro Mario Mariani, che era L'ultima stella. Sì, lì è stato un... Com'è stata quell'idea là? Questo è un avvenimento che è fatto nella partecipazione del 2008, quindi qualche anno fa. Allora, Mario, che saluto... È un pianista, un grande pianista. Sì, sì, sì. È una persona... a dir poco frizzante, perché comunque ha tanti interessi ed ha tantissime energie, tanto che quando si è in sua presenza quasi quasi le si attrae su di sé, in pratica le si sente. E era un periodo in cui mi invitava a casa sua a fare degli esperimenti con il piano, no? Lui suonava il piano e io improvvisavo emotivamente cose veramente intense, esatto. Poi di lì, insomma, a poco è arrivata questa proposta, ma è una rilettura comunque di un brano, perché in questa scena c'era questa attrice, comunque la protagonista, che doveva cantare, io ho dato la voce praticamente, certo, a lei. Benissimo. Però è stato... Positivo, so. Sì, sì. E Mario sprizza, come dire, genialità da tutti i fuori. Ottimo. E cosa volevo chiederti? Io vorrei sentirti cantare ancora, posso? Chiedo troppo? No, vabbè, sto scherzando, però sì, insomma, se te la senti, io so che sei un po' in difficoltà, ma insomma... No, io canto, poi il risultato è, purtroppo, il corpo ha i suoi limiti, è difficile. Okay. Ok, allora sentiamo, cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, questo è un brano, ecco, che nasce, si chiama Il rumore della terra che si muove, e come in trasparenza a un autore delle musiche che non sono io, in questo caso, perché appunto è un brano nato da collaborazioni precedenti, che nasce questo, che stiamo per fare, molto pop, cioè proprio veramente pop, e noi ne abbiamo dato una rilettura un po' diversa. Benissimo. Ok. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Thank you. senso, no, no. Che bello. Create un'atmosfera particolarissima in acustico, ma sembra di avere chissà quanti musicisti, in realtà siete in due più te e la tua chitarra, Frida, ma siete veramente bravissimi. Io sento, sono veramente veramente Massimiliano e Andrea, grandi grandi artisti, veramente. Grazie. Grandi, grazie. Grandi musicisti. Dalla Sicilia un salutone grande grande, un'altra cantante che ti sta ascoltando, si chiama Mirella. Grazie. E ti saluta. Saluto anche la Sicilia che amo. E scusati, ti interrompo un attimo Maurizio, sì, poi sì. Io volevo farti una sorpresa, regalarti la voce di Roberta, ma non vuole. Ho cercato ma non ha voluto assolutamente. Frida, avvicinati un po' al microfono. Sì, sì, sì. E dicevo, ho cercato di farla parlare un pochino ma non ha voluto. Chi è? Ricordiamo chi è Roberta comunque. Beh, Roberta prima di tutto è un'amica, ah, e certo. Poi è una fantastica, efficientissima, a ditta stampa. Certo. Io quando facevamo l'università insieme dicevo sempre Robè, perché lei è di Pescara, come vendi le macchine tu non le vende nessuno, che è una metafora per dire che lei ti, con il suo modo di fare ti conquista in qualsiasi modo. Certo. Infatti io ho avuto modo di conoscere in questi giorni, perché parlavamo, parlavamo di te, è sempre stata precisissima, puntualissima, ci siamo scritti anche a mezzanotte e mezza della sera, alla luna. Guarda. Ma lei lavora sempre anche di quando notte, torna, ha sì. Una bambina, un marito, certo. È pazzesco. Ciao Roberta di cuore, un abbraccio da tutti noi di Blu Radio Veneto e soprattutto dal sottoscritto Agostino, ma poi soprattutto dalla tua come dire, figlioccia, la tua amica. Amica, figlioccia non gli dire così, no, che già mi parte, per favore, bisogna arginarlo, scherzo. Comunque ti sta ascoltando, perché l'ho sentita poc'anzi. È arrivato Alberto, ciao Alberto. Allora. Sì, parlando di questo pezzo, Frida, io ho notato, ti faccio sentire le mie impressioni. È stato voluto, io non l'ho sentito l'originale, chiaramente, è stato volutamente rallentato per permettere a te, il contrabbasso e la chitarra di Andrea, di consentirti di fare delle evoluzioni vocali. È così? Leggermente sì. Sì. Uno, perché forse queste evoluzioni comunque vocali vengono sia di conseguenza che sia sono la causa prima. Abbiamo preso questo pezzo, è stato molto bello come è venuto fuori. L'abbiamo provato e testato in varie chiavi. In varie maniere, sì. E addirittura con Massimo. Sì, Maliano come ha fatto? All'inizio avevamo provato a giocare invece di più sul ritmo pop, sì, no? Un po' più veloce. E l'amico contrabbasso è diventato praticamente un bongo. Perfetto. Quindi è dovuto ritornare a farmarci indietro. Esatto. Ecco, esattamente. Però abbiamo visto che no. Non andava. Poi suonandola, appunto, rendendola un po' più vuota. Sì, esatto, vuota, un po' più smooth, come si dice in inglese. Sì, esattamente. Mi piace moltissimo questo termine, mi sfoggio quando posso. Benissimo. E poi è arrivata, appunto, mi girava in testa questa sorta di nenia che poi appunto fa un po' da sottofondo dalla seconda parte in poi, quasi ossessiva. Esatto, sì, quasi ossessiva. Che ha aperto moltissimo. E questo finale molto bello, quasi da Carillon di Andrea. Sì. È un'idea tua, Andrea, ti è venuta così per finale, così per chitarra acustica solamente, che lentamente scivola verso la fine. Certo, sì, è un'idea comunque sia nostra. Nostra in fase di riarrangiamento del brano. Abbiamo trovato questa soluzione semplice ma efficace. Esattamente. Adesso mi spiegate l'idea, ormai il disco è quasi fatto, tutti questi pezzi andranno nel disco oppure? Certo. Ecco. Sì. Siete voi tre che organizzate il disco, più Fabio. Sì. Esattamente. Noi siamo lo zoccolo duro. Lo zoccolo duro. Ma come si crea un pezzo di Frida e Company? Come si crea? Come si sviluppa l'idea, dove parte? Beh, l'idea parte... Parlo io, devi avvicinarti al microfono. Parlo, allora cerco di passanzi, provo questa è meglio, sì, esattamente. È tutto dal vivo, anche lo spostamento. sì, esattamente. No, mi permetto, nel senso che prima di tutto è essenziale il rispetto dell'idea fondamentale, quindi il merito e il nocciolo dell'idea viene chiaramente da Frida. Quello che cerchiamo di fare noi è di dare un equilibrio, diciamo, alle sue istanze, esattamente. E cercare di anche, ecco, il fatto di, c'è una caratteristica, non abbiamo uno strumento ritmico, no? Quindi esatto, sì, ci dobbiamo sobbarcare, certo, di questo compito, cioè fare sì che la cosa non si, diciamo, afflosci, no? Vero. E che sia sostenuta senza però cercare di essere troppo invadenti. E di contro, ecco, quello che ci piacerebbe avere, ma è stato notato prima, sembra che siamo in più di due. Esattamente. Questo è il tentativo. No, ma veramente, poi quando si ascolta la musica con le cuffie, quindi la senti ancora di più. Certo. Io lo dico perché è da una vita che ascoltiamo noi, certo, qui in radio la musica con le cuffie. E quindi questa sensazione di avere il pieno, tra virgolette, sì, se mi passi questa espressione, di suono è incredibile. Voi veramente ce lo state dando in una maniera vi ho a due metri, eppure è così. Il lavoro nostro è in quella direzione, insomma, certo, cercare di lasciare sia spazi che appunto colori, certo, complementari, certo, tra contrabbassi. Ma chi è che scrive la musica di solito? Tutto lei? Ma la musica, in realtà, le idee fondamentali, il tema e gli accordi vengono chiaramente, noi glieli roviniamo. Sì. Ma chi è che decide qual è? Ma è una cosa molto naturale, democratica. È capitato, sì, si provano idee, ciò che funziona teniamo, ciò che sembra noi che funzioni teniamo, certo. E ciò che non funziona, come ad esempio è capitato in questo brano, no? Che abbiamo provato varie possibilità, ad esempio era problematico questo perché risultava con un nocciolo molto ritmico e sembrava all'inizio una limitazione, perché appunto non avendo la batteria uno dice, beh, come ce la caviamo? Abbiamo provato così. È venuto fuori benissimo. Grazie. Sì, sì. Sei dolcissima, dice Roberta, c'è scritto, mi ha scritto su Facebook. Siete tutti dolcissimi, ha detto. Grazie. Riguardo questo brano devo dire che è emozionante sentire, come dire, il proprio figlio, in questo caso simbolico, che è una canzone che poi appunto camminano con le proprie gambine dopo, però sentirlo, cioè, riletto, sentirlo sotto un'altra veste, ma proprio cambiare anche nel proprio corpo, io mi sto reinnamorando di canzoni che comunque hanno un percorso abbastanza travagliato alle spalle, devo dire, perché fare canzoni è anche un'arte nel senso dell'artigiano, cioè non è solo ispirazione, anzi è profonda conoscenza e anche uno scontrarsi con i propri limiti. E sentirla così, cioè risentire questi pezzi, questi brani arricchiti dalla loro presenza musicale e umana, veramente mi sembra un miracolo, il miracolo della musica. Poi da non, cioè non sono una musicista, sono appunto una cantautrice, che è molto diverso, per cui sono come una bambina di fronte alla meraviglia che può dare la conoscenza, insieme però a una cosa importante, che è una cosa che credo sento anche stando lì vicino, cioè la passione. Non è facile avere l'equilibrio fra, diciamo, tecnica o comunque interesse scientifico e trasporto. E per me, cioè io senza trasporto, senza passione non funziono. E devo dire che la prima volta che mi sono seduta accanto a loro a suonare, io, cioè, è come se ci fossi stata sempre. È stata una sensazione di grande agio, di grande confidenza subito, e non succede sempre. No, infatti volevo dirtelo questo. L'impressione che mi avete dato voi tre è che siete quasi fratelli, cioè avete un'unione di intenti, di pensiero, di modo di fare, di essere, di stare in comunione, di stare insieme, che si vede veramente che siete molto, ma molto legati. Mi sbaglio? Cioè, va al di là, voglio dire, non siete solo colleghi del caso perché dovete suonare, ma siete proprio anche amici, siete uniti, siete... Andrea, mi sbaglio? Cioè... La domanda è più difficile da me. Questa è l'impressione che mi avete dato in quest'ora che siamo qui insieme. Poi ricordiamo che loro sono arrivati tra l'altro alle 8:20 di questa sera, quindi all'ultimo momento, insomma, da fare. Ma dicevo, è vera questa cosa, questa sensazione che date, che siete molto uniti fra di voi? Sì, sì, come diceva appunto prima Frida, dalle prove ci siamo trovati tutti e tre subito molto a nostro agio, quindi... E questo ha fatto sì che questa energia fluisse anche nella musica che, certo, stavamo suonando, quindi sente. È una cosa fondamentale, importante questa. Avete la stessa passione, sì, uguale misura. Sì, c'è comune tutti e tre, esatto. Sì, sì. Ma è bello, altrimenti questo. Non saremmo qui. Immagino. Dai che ci ascoltiamo una canzone e poi ci salutiamo, perché okay. Sono già le 22:19 così. Posso presentarla? Certo che puoi presentarla, allora, ci mancherebbe. Questa insieme alla prima che abbiamo suonato all'inizio della trasmissione è una delle, appunto, delle canzoni che ho portato al concorso Augusto Daoli a Sulmona. È una canzone molto molto densa, anche un po' scura, e insomma forse si avvicina un po' a quel rock di cui parlavamo prima. Esattamente, un po' decadente. Cuore, certo. Un po' leggermente decadente. Sentiamo. Esattamente. Okay. Luna di Osera. Colorare sarà lo sta, correre. hanno una forma di donna, vive in una bolla d'aria sospesa e sola. Sara non si arrende, corre più forte per sfuggire alla sua fame. Nelle mani, le sue mani, freddi fiumi da riscaldare. Sara lo sa, corre nel vento, si fa liente. Sara in mezzo di me, danza in un corpo che non vuole. Quanta Radio Sera. Blu Radio Sera. Di nuovo in linea, purtroppo per gli ultimi minuti, hai visto, aveva ragione Luigi, il tempo vola, passa, sì. Sono le 22, 23, quasi 24. Frida, volevo chiederti una cosa, cos'è per te la musica? Una maniera di resistere. Sì. Di resistere a... Beh, resistere in senso anche di reesistere, nel senso okay. È un, l'ho detto anche prima, è una sorta di strategia personale, una sorta di terapia, una sorta di anche momento di appunto di ricreazione, perché tanto quando si suona si dà tanto, ma si riceve anche, è quel dare che ti rinnova e ti ridà energie preziosissime. Infatti suonare dal vivo è un'esperienza alchemica, nel senso che dai voce, dai note, ricevi energia allo stato puro. E il finale che tu hai fatto di questo pezzo era molto decadente, secondo me. E per quello arriviamo, ritorniamo sempre a quello. È un discorso bello, secondo me, positivo. Il contrabbasso dà, e la chitarra suonata in questa maniera dà il decadente del pezzo. E io l'ho sentita così. Decisamente. Bene. E forse per quello ha scosso anche gli orizzonti culturali della regia. Qui c'era anche Andrea Lovecchio, un famoso autore di canzoni di un po' di tempo fa, e anche adesso scrive, per una volta scrive i singoli di successo per tanti artisti. Infatti loro poi in maniera diciamo concertata mi hanno detto proprio questo, a parte che io ho suonato alla fine, quindi non si aspettavano diciamo più niente, nel senso, con tutto il rispetto, ma nel senso di appunto di dinamica del concorso, capito. Quindi erano veramente le 9 e loro erano lì dalle 2, quindi erano stanchi, però si sono hanno scossa, mi hanno detto cavolo, ci siamo ritrovati, questa mo chi è, cioè, hai dato una scossa, sì. Questo e loro hanno notato anche la presenza del contrabbasso come una fondamentale, una chiave fondamentale. Siamo poche band, pochi musicisti che usano il contrabbasso. Il contrabbasso, non perché qua c'è davanti Massimiliano, ma è molto importante, dà un certo modo di captare, di sentire. E noi che abbiamo un certo rock, me, Agostino e Alberto Pisco che è già scosso dall'altra parte, ci dà molto, secondo me. Così, io la sento così. Frida, una battuta, se la vuoi dire, sono... cosa ne pensi del Festival di Sanremo? Se la vuoi, tanto non ti sente nessuno. Se la vuoi dire, lo so che per voi. No, allora, io penso che in Italia ci siano, non voglio fare la retorica, certo. Ci siano tantissime persone brave, tantissime persone che meritano di essere ascoltate, di essere coltivate. E Sanremo, Sanremo dovrebbe coinvolgere questo tipo di persone. A volte, cioè, capita, nel senso, mi ricordo, io questa particolarità, non ho una televisione, quindi faccio difficoltà, infatti devo seguirlo tramite radio, e c'erano delle presenze a Sanremo molto innovative, tipo l'anno scorso, no? Non so, una Malika Ayane, piuttosto sì. c'è ancora qualcosa. Mandiamo ancora gente innovativa, perché questo paese ne ha tantissima. Poi ci tocca andare all'estero, ci tocca fare i fattorini pur di suonare. E quando Frida sopra? Bah, non si sa. No. Intanto ti aspettiamo qui per un altro disco, quando uscirà. Il primo disco. Questo grande parto. Se ti fa piacere, ovviamente, venire. Insomma, noi ci hai regalato una bellissima serata, penso anche agli ascoltatori. Maurizio, ci salutiamo. Eh sì, abbiamo finito questa un'ora e mezza con Benedetti. Io mi stavo abituando, insomma. Immagino. Di Massimiliano e di Andrea. Ripeto, è una musica molto interessante. Il contrabbasso e la chitarra suonate in questa maniera danno un tocco diverso. Secondo me il disco che farai, che uscirà quando uscirà, spero più presto, sarà un disco interessante da sentire, da ascoltare attentamente, come tutta la tua musica. Io grazie. La reputo così. Allora, buona serata e buon proseguo all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto con Alberto Prisco. Agostino Spolore vi dà l'appuntamento a giovedì della settimana prossima con Alessandro Novello, un cantante qua della zona di Castelfranco, che verrà a trovarci in studio per il suo primo disco da cantante, insomma, da autore anche. Maurizio, io ti saluto, ti ringrazio della solita collaborazione. Grazie a te. Ma soprattutto ringraziamo Andrea, ringraziamo Massimiliano. Grazie. E con un grande abbraccio a te, Frida. Io vorrei ringraziare voi perché siete veramente carini, nel senso più bello del termine. Grazie, grazie mille di queste parole, grazie di aver risposto tra l'altro subito anche al mio invito, e mi ha fatto sinceramente molto, ma molto piacere averti qui questa sera. In bocca al lupo per la tua musica. Okay. Ci salutiamo con l'ultima canzone? No, abbiamo finito. Non ce l'hai, ce li fai un pezzettino? Puoi fare una reprise. Un reprise, fai quello che vuoi tu. Quello che vuoi te, una reprise di quello che vuoi te. Allora, bene, subitissimo. Io proporrei per quella folk, non so se va bene per voi. Sì, sì, sì. Magari farei un pezzettino. Pezzettino, sì, veramente sì. Una pezzettino. Reprise. Facciamo una strofa. È una strofa, esatto. Ok. Colgo il sale, nudo al suo balcone. Ma io non ho niente di più, niente di più di me stesso. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e privato. Incontri con personaggi.